Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Alberto Fassina di Partenos Distribuzione per presentare il film Only the Animals, storie di spiriti amanti di Dominic Moll, distribuito dal 12 maggio 2022. Ben trovato. Salve a tutti, buongiorno. Che racconto è questo? Only the Animals è a tutti gli effetti un giallo, molto classico e molto moderno allo stesso tempo. Molto classico perché una donna scompare, è scomparsa, è morta, è scappata, insomma non lo sappiamo, o comunque insomma lo sapremo con l'incidere del film, e ha quella struttura un po', se vogliamo, alla Agatha Christie, insomma un po' a incastri, cioè man mano che il film va avanti si concentra su un personaggio e vediamo la storia dal punto di vista focalizzata insomma su uno dei vari personaggi che potrebbe insomma aver avuto a che fare con questa donna. E questo meccanismo appunto un po' alla, se vogliamo, 10 piccoli indiani, non lo so, insomma, o mi viene in mente anche il cambio di punti di vista del film di Kurosawa, insomma, cioè quel fatto di entrare nella storia in diversi modi, l'abbiamo trovato una cosa molto gradevole ed efficace. E poi è molto classica, insomma, su un certo tipo di film, soprattutto appunto gialli, thriller. Però la parte moderna, secondo me, di questo film è quella che è legata un po', qui non bisogna svelare troppo, insomma, al mondo del virtuale, insomma, cioè ci sono delle cose che sono legate, insomma, alla rete, dei misteri che pian piano vengono a galla. E poi c'è un'altra parte di trama, cerco di essere sempre vago, perché a un certo punto il film è francese, ambientato insomma in una località montana in Francia, d'inverno, c'è la neve, e poi dopo il film però viaggia anche nel mondo, perché insomma i destini delle persone coinvolte in una maniera che potrebbe ricordare Babel di Inarritu, no? E, insomma, i destini a un certo punto di queste persone sparse per il mondo si intrecciano. Dove lo avete intercettato il film e come avete pensato la situazione? È uno di quei film bloccati dalla pandemia, perché è un film che abbiamo visto un paio d'anni fa, insomma l'ultima edizione della Mostra di Cinema di Venezia pre-Covid, era presentato alle giornate degli autori ed era il tipico film, quello un po' da rassegna parallela, un po' dei festival, quello che magari ne conosci poco e poi ti conquista. Poi dopo devo dire che comunque quando il pubblico lo vedrà conoscerà anche diversi attori, beh, cioè, insomma c'è Valeria Bruni Tedeschi, però per dire c'è Lorca Lamy che in questo due anni, mentre il film è stato fermo, lei invece è esplosa insomma come attrice, l'attrice di Chiami mia gente, adesso di Full Time a tempo pieno, insomma è una delle star emergenti del cinema francese e anche internazionale, più tutta un'altra serie di comprimari sempre legati al cinema francese che appunto il pubblico sicuramente insomma riconoscerà. Quindi Giornate degli autori, Mostra del cinema di Venezia. Dominic Moll, cos'altro sappiamo? Dominic Moll è uno di quei registi che appaiono e scompaiono, insomma, no? Negli anni 90-2000 un paio di suoi film erano stati distribuiti con un discreto successo, insomma, sempre con un po' questo bollino, insomma, del cinema d'autore indipendente, no? Poi dopo era un po' scomparso dal mercato italiano e questa mi è sembrata l'occasione per riportare appunto un suo film in Italia. Detto questo, mentre noi usciamo con il suo penultimo film, se non sbaglio, sono quasi sicuro, insomma, al Festival di Cannes, se non sbaglio, invece viene presentato nella sezione Cannes Premiere, che insomma una sezione così di rilievo, il suo nuovo film di cui ad oggi non so niente, anche perché insomma il Festival di Cannes comincia fra una settimana e insomma c'è sempre un po' di riserbo sui titoli che sono sempre presentati in anteprima mondiale, e quindi in Italia arriva il penultimo film, in Francia insomma arriva il nuovo film di Dominic Moll, quindi Dominic Moll sta bene, mi spero di capire, mi viene da dire, ecco. Sai che sì. Fortuna hai avuto all'estero? Ha avuto due candidature ai César, però ripeto, è uno di quei film che se noi abbiamo visto a settembre 2019, voi avete presente che insomma marzo 2020 è successo quello che è successo, per cui ho idea che come tanti altri film in Francia è uscito, è andato bene, anche perché è tratto da un libro di successo in Francia che si intitola Seul le Bête, che è praticamente la traduzione francese di All the Animals, però è uno di quei film un po' nati sfortunati perché il periodo è stato quello che è stato, insomma, quindi bene accoglienza in Francia, due candidature ai Star, però insomma sappiamo che questi due anni sono stati insomma complicati per qualsiasi risultato, insomma, ecco. In quante sale? Una trentina di sale in tutta Italia, sparse appunto sul territorio. Era anche da un po' che non ci sentivamo con i vostri ascoltatori, perché appunto è sempre più difficile portare i film in sala, capire qual è il momento giusto, per cui sì, viene da dire che ci si augura che il film possa allargarsi magari come numero di copie o comunque fondamentalmente per questa tipologia di cinema, insomma, le 30 copie, questo tipo di diffusione va più che bene, insomma, cioè ci si aspetta che le sale che lo proietteranno, insomma, lavoreranno bene. Se non sbaglio, a Roma dovremmo essere al cinema Troisi, insomma, siamo abbastanza contenti dei locali e della distribuzione che avrà appunto All the Animals. Speriamo anche che il pubblico si diverta, ecco, perché è un thriller, insomma, ci sono dei fatti non allegri che vengono raccontati, però il gusto del racconto è molto godibile. Io quando l'avevo visto al tempo era il periodo che Parasite spopolava, aveva iniziato, forse aveva vinto appunto la Palma d'Oro quell'anno, poi il film lo vedemmo noi invece All the Animals a settembre, e un po' il gusto che c'era nel vedere ad esempio Parasite, cioè di vedere come questi personaggi avrebbero risolto un po' la situazione in maniera totalmente diversa, insomma, io l'ho ritrovato anche in All the Animals e spero che anche altro pubblico insomma potrà godersi nel cercare di capire come questi personaggi hanno a che fare l'uno con l'altro. Per saperne di più, soprattutto rispetto ai cinema, dove trovarlo, ci dai i riferimenti web? www.partenosdistribuzione.it e poi Partenos Distribuzione su Facebook, e poi invito insomma le persone nelle loro città appunto a scrivere su Google cinema All the Animals e troveranno la loro sala più vicina a casa. Il film All the Animals, storie di spiriti amanti di Dominic Moll al cinema da giovedì 12 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Alberto Fassina di Partenos Distribuzione. A presto! Grazie, grazie a voi. Salve. Con Roberto Manassero di My Movies per presentare il film Hope di Maria Sodal al cinema da giovedì 12 maggio 2022. Ben trovato. Buongiorno, grazie dell'invito. Che racconto è questo del film? Il film è la storia di una donna, Anya, credo sia la pronuncia giusta, in norvegese, che è una regista teatrale, una signora di una cinquantina d'anni, che è tornata a Oslo alla vigilia di Natale, siamo il 23 di dicembre, tornata dal compagno che è un produttore e dalla numerosissima famiglia, proprio alla vigilia delle feste scopre di avere un tumore al cervello. Quindi è un film sulla malattia, è un film che affronta il calvario di una donna e dell'uomo che la ama, per conoscere lo stadio di avanzamento del tumore e capire se è possibile intervenire. È un film che si svolge in una decina di giorni, dal 23 di dicembre al 2 di gennaio, dal momento del ritorno a casa della protagonista all'operazione che forse, il titolo dà una piccola speranza, visto che in italiano significa speranza, che forse potrebbe fare qualcosa per la sua malattia. Non è però un film sulla malattia, ma è sul modo in cui questa donna affronta quello che potrebbe essere l'inizio del cammino che la porterà alla morte, quindi un film molto intenso e molto difficile anche da realizzare visto la fragilità, la delicatezza del tema. Cosa ti ha convinto? Convince proprio questo, la delicatezza del tema e la capacità della regista, che è anche sceneggiatrice, di affrontarlo tenendosi a distanza dal melodramma, che in questi casi è quasi inevitabile, e a distanza anche però dalla rappresentazione un po' fredda, poco empatica del percorso di dolore, quindi riesce a stare a una giusta distanza, direi, rispetto allo scadere nel drammatico oppure nello scadere semplicemente nell'osservazione, perché il film poi è tutto sulle relazioni, cioè sul modo in cui questa donna, a fianco all'uomo che sta con lei da una trentina d'anni, con cui ha fatto 3 figli e che vivono insieme ad altri 3 figli che l'uomo aveva in precedenza, quindi hanno figli che vanno dall'età del bambino all'età adulta, come questa donna cerca di gestire la relazione col marito, col compagno, la relazione con i figli, il fatto che ci sono le feste, quindi ci sono le visite dei parenti, il fatto che durante le feste ci sono i servizi medici rallentati, e riesce a creare tutta una serie di situazioni quotidiane, profondamente realistiche, però a ricondurle sempre a una dimensione psicologica, a una dimensione esistenziale quasi, riuscendo a essere emozionante e al tempo stesso molto preciso. Di Maria Sodal, di cui in Italia credo sia il primo film ad arrivare, cos'altro sappiamo? Ma è una regista che ha una cinquantina d'anni, che ha già girato diversi corti prima di passare a lungo. Il suo primo film è una collezione di cortometraggi del 2000, e poi l'altro film importante si chiama Limbo, anche in quel caso una storia corale, però ambientata tra la Norvegia e il Trinidad, per cui è una storia che non ha molto a che fare con il film che invece sta per uscire, Hope. Hope è un film di 2 anni fa, quindi si è girato nel 2019, che esce solo adesso, però ecco, è una regista che, nonostante non sia molto conosciuta nemmeno troppo in ambiente festivaliero, e che ovviamente non è conosciuta in Italia, che non ha nemmeno una grande esperienza, in realtà poi in questo film rivela una maturità stilistica nella capacità proprio di stare vicino ai personaggi, di non eccedere con uno stile eccessivamente formale, ma proprio di utilizzare un linguaggio molto classico, molto tradizionale. Un tempo si sarebbe detto che questo è un classico film borghese, un film per adulti, che è efficace e perfettamente adeguato al tema che tratta il film. Il film Hope di Maria Sodal, distribuito da Movies Inspired, al cinema da giovedì 12 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Roberto Manassero di My Movies. A presto! Grazie a voi, arrivederci. Con Alberto Valtellina, regista del documentario La bicicletta e il badile in viaggio come Herman Bull, al cinema da martedì 17 maggio 2022, ben trovato. Buona giornata Federico, sempre un piacere. Anche per me. Cosa ci racconti? La bicicletta e il badile è nato da 2 libri. È nato dal libro È buio sul ghiacciaio, che è il titolo italiano dell'autobiografia di Herman Bull. Herman Bull è stato un grande alpinista, è stato il primo uomo sul Nanga Parbat, tra l'altro è salito in solitaria nel 1954. C'è un film di Hans Hertel sulla spedizione. Herman Bull ha scritto la sua autobiografia, e prima di diventare il famoso alpinista che poi è stato riconosciuto in quanto tale, ha effettuato alcune salite particolari. Quella da cui partiamo noi è la salita che ha effettuato partendo. Lui ai tempi lavorava come spedizioniere, faceva un lavoro d'ufficio normalissimo. Al venerdì, finito il lavoro, salta sulla bicicletta, parte, si fa tutta l'Engadina da Innsbruck, arriva alla base del Pizzo Badile, dopo aver passato il passo del Maloja. Sono circa 130-140 chilometri con un 1200-1300 metri di dislivello. In salita e poi in discesa, perché dopo il passo deve scendere fino alla base della parete. Sale la parete in 4 ore, questo nel 1952. L'alpinista italiano Riccardo Cassin, con alcuni altri alpinisti, nel 1937 ci aveva messo 4 giorni a salire la stessa via, e lui si è messo 4 ore in solitaria, slegato, è sceso, è ripartito in bicicletta, e al lunedì mattina era pronto per l'ufficio dopo un'impresa che è diventata celebre. E l'ha scritto nel suo libro, però nasce da questo perché il mio co-regista Maurizio Panseri, dopo il lockdown, ha deciso che doveva cambiare il modo per andare in montagna, e si è messo ad andare in montagna, lui arrampica, avvicinare le pareti con la bicicletta. Abbiamo collegato le due cose e è nato il film. Abbiamo poi scoperto che le versioni del racconto di Herman Bull differivano, e ci siamo resi conto che nella prima c'era un racconto ampio, con il racconto del viaggio. A un certo punto era preso in autostop su un furgoncino di un tipo che trasportava marmellate. Cioè, c'era un racconto molto ampio che poi è diventato semplicemente il racconto della salita. E noi nel film abbiamo fatto un po' la stessa cosa. Abbiamo dilatato il racconto, e invece di concentrarci sul viaggio e sulla salita, che ci sono nel film, abbiamo invece cercato delle derive e le abbiamo trovate incontrando persone che in qualche modo hanno una storia collegata a quella della montagna, ma per esempio abbiamo un liutaio, abbiamo sì anche delle guide alpine, abbiamo due ragazzi che studiano ingegneria e non abbiamo persone celebri in qualche modo, non volevamo andare al traino di figure celebri, abbiamo però trovato figure importanti. Hermann Bull muore nel 1957 mentre stava salendo il Zugvolisa dopo essere stato il primo uomo sul Broad Peak con Kurt Diemberger, un altro alpinista famoso. Lui muore e lascia la moglie e tre figlie. La prima figlia, Krimild, scrive poi un libro sulla mancanza del padre. Allora siamo andati a intervistare Krimild. Lei avrebbe voluto chiamarlo una donna coraggiosa. Invece ha detto, no, sei la figlia di Hermann Bull, e allora è nato mio padre Hermann Bull. Però praticamente lei racconta la storia della moglie di Hermann Bull, vedova a 33 anni, povera in canna, che si è dovuta portare avanti tre figlie, la più grande di 6 anni, che era Krimild, la più piccola aveva 1 anno e mezzo, che si è dovuta inventare, perché poi naturalmente finché c'era lui, era la moglie del famoso alpinista. Morto lui, era una vedova con 3 figlie. Per cui piaceva un po' anche far saltare fuori questa figura attraverso le parole di Krimild. Siamo andati a trovarla sulla frontiera tra l'Austria e la Germania. Abbiamo una sua intervista che secondo me è molto bella perché racconta questa mancanza. Quindi l'idea era quella di parlare dell'eroe e di vedere il lato B della vicenda. Come avete pensato di distribuirlo? La distribuzione di un film a maggio in contemporanea con il Festival di Cannes è un po' come fare il bagno a gennaio, si può fare ma non è raccomandabile. Abbiamo 10 di date per il momento, abbiamo 2 anteprime, il 13 maggio a Tirano in provincia di Sondrio, il 15 maggio al Cinema Beltrade a Milano, poi inizia il viaggio del film dal 17, abbiamo questa 10 di date per il momento. E poi ragioneremo per l'estate, stiamo prendendo i contatti per continuare. Può essere considerato anche un film d'avventura in qualche modo. Ma per cui tanto, anche un'arena estiva può accettarlo e anzi può essere una bella boccata d'aria. Com'è stato il lavoro con Due Teste? Questo è il quarto film che faccio con Maurizio. Lui è un tecnico forestale, infatti all'interno del film ci sono anche un po' di riflessioni sulla rinascita dei boschi dopo la grande frana da 8 milioni di metri cubi caduta dal Pizzo Cengalo, che è la montagna proprio a fianco del Pizzo Badile. La frana è del 2017, Maurizio si è reso conto che la natura stava ricrescendo, parla di un'insalatina di larici che stanno già crescendo sul corpo di frana, e la riflessione è un po' quella di rendersi conto di quanto la natura è indifferente, che Kennedy Geisenstein. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Sul mio sito c'è sia il progetto iniziale, che in realtà è esattamente quello che poi abbiamo sviluppato cinematograficamente. Il mio sito è albertovaltellina.it. Poi vabbè, nonostante l'età cerco di fare cose sui social, pur detestandoli leggermente, però tutto sommato ci si diverte. Sia su Instagram sia su Facebook sono Alberto Valtellina e si riconosce perché c'è la bicicletta e il badile praticamente ovunque. Il documentario La bicicletta e il badile in viaggio come Hermann Bull al cinema da martedì 17 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Alberto Valtellina. Alla prossima! Buona giornata, alla prossima. Ciao Federico. Con Patrizia Rappazzo, direttrice artistica della 29esima edizione di Sguardi Altrove Film Festival a Milano dal 10 al 15 maggio 2022, ben trovata. Grazie, sono contenta di essere ancora una volta con voi, 29esima edizione, sì, siamo molto contenti di inaugurare questa edizione finalmente in sala, il cinema va visto in sala, quindi è un'occasione veramente bellissima, straordinaria, anche per un programma molto vasto, molto ricco, abbiamo oltre 80 titoli, l'80% in anteprima italiana, internazionale, alcune prime assolute, per cui siamo veramente molto contenti. Madrina di questa edizione è Drusilla Soer, e siamo contenti anche che abbia voluto accettare il nostro invito, e per questo omaggiamo anche con un premio Sguardi Altrove 2022, proprio per la sua capacità, no, di essere assolutamente inclusiva in tutti i suoi messaggi, per l'unicità di genere che porta avanti da tanti anni, e quindi noi siamo veramente contenti che possa rappresentare tutte le singolarità del femminile. Il festival quest'anno ha una sezione nuovissima dedicata alle youtuber, proprio per entrare, scendere a compromesso con quelli che sono i nuovi linguaggi dei giovani. Abbiamo un film mainstream in anteprima italiana, e è questo che dà il segno, il segnale un po' di quello che è il focus anche 2022 sulle scelte etiche consapevoli di uomini e donne dei nostri tempi, e dove ciascuno di noi è chiamato in prima persona ad avere un atteggiamento consapevole e responsabile proprio dinanzi a quelli che sono i momenti che la vita e la quotidianità ci sta ponendo. Infatti abbiamo inaugurato il nostro festival con un film candidato all'Oscar 2022 per l'Ucraina, che è Bad Rocks, proprio sull'attuale guerra. In realtà il film è girato nel 2020, però ci riporta in questo che è il territorio massacrato del Donbass. Abbiamo fatto questa pre-inaugurazione, è stata molto seguita, c'è stato un dibattito successivo, questo per ricalcare come il festival ogni anno entra in relazione con i temi della contemporaneità. Un'attenzione particolare quest'anno, con un omaggio straordinario e con un premio Rotary 2022 dedicato a Lena Wertmüller, un premio alla carriera postumo che verrà consegnato alla figlia. Siamo molto contenti, abbiamo selezionato tra i titoli più noti della Wertmüller, ma anche abbiamo selezionato dei titoli che hanno avuto una visibilità minore, che rientrano dentro anche una sezione inedita e nuovissima in collaborazione con la Cattolica di Milano, che si chiama Cinema Invisibile, che dà visibilità appunto ai titoli che sono stati prodotti, hanno avuto una visibilità minore rispetto alle altre opere, nel caso specifico della Wertmüller, ma anche di titoli come Stanno da morire della Roberta Torre e Le rose blu di Emanuela Piovano. Quindi è un festival che quest'anno riprende i legami anche con la sostenibilità ambientale, che erano i temi del 2022, ma si confronta naturalmente con il moltiplicarsi appunto di scenari di guerra, che ritornano anche nei temi del concorso internazionale lungometraggi, Nuovi Sguardi, ma anche nella sezione competitiva dedicata ai cortometraggi, e anche nella sezione che ritorna per il secondo anno, Azzurro Pallido, interamente ed esclusivamente firmata da registi uomini. Quindi la contemporaneità veramente balza alla cronaca, tra la guerra, scene comunque anche purtroppo di violenze domestiche, tra cui il film con cui inauguriamo la serata del 10, che è proprio la serata di inaugurazione, che è Phoenix Rising, sulle violenze subite da Evan Rachel Wood da parte di Marilyn Manson, che è il rocker che è stato osannato per la sua abilità canora, ma anche per tutta la sua versatilità in ambito musicale, ma che appunto viene anche ricordato per delle violenze e delle molestie che ha fatto a tante donne che hanno lavorato con lui. E altri titoli molto interessanti, tra cui parecchi sono stati candidati al Donatello 2022, sono inseriti nella sezione Frame Italia, che è la sezione dedicata al cinema italiano indipendente, a cui noi ogni anno dedichiamo uno spazio significativo. Quest'anno i titoli sono 10, e abbiamo Cuntami di Giovanna Taviani, un bellissimo affresco che ci racconta la storia dei pupari siciliani, proprio in un contesto veramente scenografico della Sicilia, che ci riporta nella Sicilia di altri tempi. Poi abbiamo uno spazio significativo dedicato alle scelte etiche consapevoli, specificatamente articolato nel contesto della fisicità, infatti il corpo e le scelte. Questa è una sezione che consta di una serie di proiezioni, ma anche dei talk dedicati proprio sui temi dell'aborto, della sepoltura dei feti e la scelta anche di portare avanti una gravidanza anche in situazioni di stupro. A proposito di questo, ci sarà un reading a cura di Sonia Bergamasco, che leggerà alcuni brani tratti tratti dall'evento di Annie Ernaux, da cui è stato tratto poi il film Le Scelte, che aveva vinto a Venezia dello scorso anno. Insomma, è un festival che riannoda tanti fili rossi che sono stati già percorsi nell'edizione precedente, ma che quest'anno si consolidano sempre di più. Abbiamo una presenza nuova quest'anno per il sostegno del festival, ci hanno aiutato molto anche a far avanzare, crescere e sviluppare sempre di più anche tutta una parte, sia da un punto di vista dei contenuti, ma soprattutto ci hanno creduto nella nostra manifestazione. E quindi è un grazie sia agli sponsor nuovi, ma anche a tutte le istituzioni che da sempre ci seguono. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Il nostro sito è sguardialtrovefilmfestival.it, trovate il programma, il catalogo, tutto scaricabile, insomma seguiteci, abbiamo una bella edizione anche online, quindi sì, la sala assolutamente, ma chi ci vuole seguire da lontano, abbiamo anche le proiezioni come sempre sulla piattaforma MyMovies, il programma quasi completo, per cui potrete stare con noi comunque, grazie. 29esima edizione di Sguardi Altrove Film Festival a Milano dal 10 al 15 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Patrizia Rappazzo. A presto! Grazie, grazie a voi, a presto! Con Amir Racco, direttore artistico della 16ª edizione di IFF, Integrazione Film Festival, a Bergamo al Polo Culturale d'Aste e Spalenga e allo Schermo Bianco, dal 10 al 15 maggio 2022. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie dell'invito, sono molto felice di essere qui con voi oggi. Raccontiamo cos'è questo festival. Passo dal mio punto di vista, ma anche da quello che ho vissuto negli ultimi anni, essendo stato poi uno dei registi selezionati precedentemente in questo festival, è uno spazio che permette di parlare e raccontare storie di vita quotidiana, di scambi, di culture che sembrano altre volte lontane da noi, ma in realtà sono molto vicine, perché le cose che ci accomunano sono molto di più, e dà lo spazio a registi di nazionalità diverse di esprimere e raccontare le loro storie in luoghi lontani. Quindi è uno spazio che dà la possibilità alle persone e a chi, che sia l'osservatore o gli spettatori che guardano, di vedere storie di altre culture, di altre etnie. Quest'anno in due luoghi, Polo Culturale d'Arte Spalenga e allo Schermo Bianco, com'è strutturato? Quest'anno è strutturato che c'è lo Schermo Bianco, bellissimo spazio nuovo in cui ci sarà la possibilità di vedere i film in una sala cinematografica a tutti gli effetti, con qualità incredibile rispetto alla visione dei contenuti che ci saranno, e allo stesso tempo c'è uno spazio che è lo spazio Agora, in cui ci saranno incontri, ci sarà la mostra Origines sui talenti artistici dei ragazzi di seconda generazione e non, e quindi è strutturato in cui ci sarà proprio uno scambio tra i due luoghi, sia dal punto di vista cinematografico e quindi visionando i film, ma allo stesso tempo anche uno scambio fisico di discussioni, di dibattito all'interno della rassegna cinematografica. Quante saranno le opere presentate e poi ci saranno gli incontri con autori e autrici? Assolutamente, le opere selezionate sono 9 cortometraggi e 4 documentari internazionali da tutte le parti del mondo. Quest'anno abbiamo ricevuto 350 film da tutti i continenti. Ci saranno le Q&A, le domande e le risposte degli autori subito dopo le proiezioni dei film, in modo che lo spettatore, se ha curiosità rispetto alla scelta, l'esigenza dell'autore nell'aver raccontato questa storia e quali sono stati i processi creativi che hanno portato a questo, ma soprattutto anche la scelta attoriale delle attrici e la loro interpretazione all'interno del suo racconto. Come saranno gli orari? Le sere partiranno tutte dalle 20:30 in poi, in cui ci saranno le proiezioni e dureranno fino alle 23 circa. Come cosa, e poi in realtà anche al secondo giorno, al terzo giorno, al quarto giorno ci sarà la permanente mostra Origines, in cui l'inaugurazione sarà il 10 dalle 18 proprio a Deste, a Spalenga, nell'area Agora, e poi la sera ci sarà la prima, diciamo, l'opera di El Papu, il legionario, in anteprima per Bergamo, sarà proiettata da noi con la presenza del regista ma e anche dei due attori, e poi riandando dai giorni seguenti sono le proiezioni dei corti e dei documentari che partono dalle 20:30 in poi, e in concomitanza, prima dell'evento delle proiezioni, c'è un contest sullo skate, perché abbiamo un documentario che parla al femminile di come lo sport può essere una forma di riconciliazione con se stessi e ritrovare il proprio posto nel mondo e conoscere le persone e tirar fuori tutto quello che abbiamo interiormente utilizzando lo sport come chiave di integrazione, ma soprattutto anche come chiave di sentirsi bene con noi stessi. Per tutti i dettagli ci dai riferimenti web? Tutti i dettagli sono su integrazionefilmfestival.com, ma anche sulla pagina Instagram di Integrazione Film Festival e sulla nostra pagina YouTube, in cui ci sono tutte le informazioni possibili rispetto a ogni sera cosa ci sarà, e è tutto un preambolo perché c'è il teaser della presentazione di questa edizione che ha come parola chiave futuro. 16ª edizione di IF Integrazione Film Festival a Bergamo, Polo Culturale d'Aste e Spalenga, e allo Schermo Bianco dal 10 al 15 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Amir Ra. A presto! Grazie a voi, arrivederci. Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.